Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese. Mi pareva di vedere quel ragazzo altissimo, dalla piccola testa d'uccello, l'avvocato Giuseppe Le Caldano, anch'egli occupato alla radio e devoto amico di Luigi e fervente ammiratore della dottrina marxista, e l'uomo bruno dall'aspetto dimesso che siede al suo fianco e l'operaio specializzato Alfredo Barra, comunista, che vide con gioia i primi passi di Luigi nella vita delle federazioni e anche ora che il giovane si rifiuta lo segue come un caro morto. Quell'incrocio poi tra la serenità di Fidia e la depressione di Sartre, quelle belle labbra, quei begli occhi, quello sguardo freddo, quella fronte perfetta, adombrata da ciocche di pallido bronzo, quell'euforia e quell'angoscia, appartengono al giovane sindacalista Aldo Cotronei, che già una volta tentò il suicidio e ora si aggrappa di nuovo al partito per non morire. Quale malinconia! Tenero ricordo di una bellezza che non può ripetersi, vela quei puri lineamenti e schiude in un triste sorriso le labbra avvezze a ripetere dure formule. A queste persone il compagnone leggeva degli sketch radiofonici e poi nauseato le osservava. Dissolte nella mia mente queste figure di marxisti e con esse le voci un po' monotone e fisse di chi agisce in sogno, la stanza si popolava delle più squisite figurine napoletane degli anni 45-50 e vi si potevano riconoscere note personalità intellettuali del luogo: Guido Mannaiuolo, proprietario del Blu di Prussia, piccola galleria d'arte moderna, Gino Capriolo di Radio Napoli, la signora Etta Comito, redattrice della terza pagina del Corriere di Napoli, Semi Fayad, giovane venezuelano, Franco, Gino, Antonio Grassi, rispettivamente figli e fratello di Ernesto, il decano dei giornalisti napoletani. E tutte insieme queste persone ascoltavano anche loro gli sketch del compagnone senza avvertire il ribrezzo e l'insulto che erano nella sua voce quasi femminile. Svanite anche queste figurette, ecco farsi un nero e in quell'oscurità illuminarsi certi contorni quasi tragici. Il pingue e delicato Prisco, ragazzo perfettamente educato, l'inquieto La Capria, il chiassoso e pallido Rea, gli scrittori comunisti Incoronato e Pratolini, dagli sguardi freddi e maturi. Davanti a questi il compagnone non leggeva più. Preso da un fitto, impercettibile tremito, lasciava che i fogli pieni di spiritose battute gli scivolassero dalle mani. Abbassava sul petto, invaso da un misterioso terrore, il suo mento aguzzo di vecchio. Mi ricordai così che anche il compagnone scriveva, o almeno si era illuso di farlo, e solo ultimamente aveva finito per dedicarsi agli sketch. Mi ricordai altre cose. Il motivo per cui ero arrivata fino a casa sua, ottenere alcune informazioni e indiscrezioni sui giovani scrittori napoletani, era sparito per lasciar posto a un interesse più profondo, dal quale non era escluso un certo imprecisato spavento. Nella mia mente era come se in una vasta casa dimenticata qualcuno passasse di corsa, alzando una lanterna. Il compagnone non era stato un giovane come tanti, benché come tanti scrivesse e la sua produzione fosse contenuta negli schemi soliti, poesie, articoli, racconti e qualche pagina di romanzo. Adesso non faceva più nulla, ma vi era stato un tempo, subito dopo il 45 a Napoli, che egli era stato al centro della pubblica attenzione, riconoscendo tutti, nella sua prosa agile e sfrontata, nello scherno e l'ira di cui erano irti i suoi scritti, il segno di una Napoli diversa da quella che finora ci avevano rappresentata classici antichi e moderni, non più ridente, incantata o tambureggiante e grottesca, ma livida come una donna da trivio sorpresa da un subitaneo apparire della ragione. Non solo quella brutta poesia che egli pubblicò nel giornale di cultura Sud, «Questa è la mia città senza grazia», cosa che non aveva detto alcuno dal principio dei tempi parlando di Napoli su cui pesava la favola di una felicità enorme, ma anche racconti e articoli pubblicati un po' dappertutto recavano il segno di questa coscienza, un barlume, si intende, ma bastevole ad accendere la speranza. In quel tempo il compagnone era comunista, come del resto tutta la più tenera gioventù di Napoli, affinatasi nelle cellule segrete del GUF. Era corso subito a iscriversi in quella squallida sede di via Galiani, una volta partiti i tedeschi, con la scrupolosità del cittadino che, rasa al suolo la città, ma mutolite finalmente le batterie nemiche, s'avvicina a quei pozzi che spera non infetti per ricominciare la vita. A momenti dava persino noia con il suo entusiasmo, ma non poteva non intenerire. E durando e diffondendosi la fama di quella sua intelligenza, di quel suo ridere così disperato, pieno di un tremito di cieli infranti, la sua casa fu presto come una guarnigione, in stretta comunicazione con quella del ragazzo Prunas, posta nella roccaforte dell'Annunziatella, dove il padre del Prunas dirigeva quell'antica scuola militare. Intorno Napoli era quella che noto, una colata lavica di pus e di dollari. L'americano aveva sostituito il Borbone e bastava sentire dire ok perché dalla vicaria a Posillipo tutti i cuori tremassero. E in queste due case, che in realtà erano una sola, se ne profittava per stendere, forse ingenuamente ma con un impegno evidente, le prime linee di quella scuola della ragione che altrove aveva già purificato i paesi e alla cui mancanza, qui, era dovuto il profondo sonno e la disperazione della coscienza. Si voleva sapere tutto, capire tutto di questa mostruosità che, alla luce degli ultimi fatti, appariva Napoli. Si voleva rimuovere la lapide finissima che posava sulla sua fossa e cercare se in quella decomposizione rimanesse ancora qualcosa di organico. Si pronunciavano per la prima volta nella tradizione locale parole come sesso in luogo di cuore, sifilide in luogo di sentimento e ossessione come ispirazione. Si scopriva non esservi un popolo al mondo infelice come il napoletano e infelice perché malato. Si cercavano le cause di questa malattia, definivano i modi di questa infelicità, smontando senz'altro il mito dell'allegria. Si ravvisavano in quelle esistenze, in quei canti, una convulsa desolazione, il lamento dell'uomo perduto nell'incanto e l'incoscienza della natura, e dominato e succhiato continuamente da questa madre gelosa. Un popolo incapace ormai di coordinare i propri pensieri, comandare i nervi e muovere un solo passo meno che barcollante. Un popolo incapace di prendere viva parte alla storia dell'uomo anziché esserne continuamente oppresso e umiliato. Se ne indicavano le conseguenze e studiavano i sistemi per liberarlo da una schiavitù così grave. Fin dal primo momento era stato chiaro che la cultura, intesa come conoscenza e quindi coscienza, specchio dove fissare la propria immagine, fosse indispensabile. Bisognava rimuovere dall'opinione pubblica il mito terribile del sentimento, chiarendo tutte le alterazioni e deformazioni cui esso aveva condotto l'odierna società partenopea. Sottrarre alla sua vista, finché le condizioni generali non fossero migliorate, i celidi di Giacomo e Palizzi, proponendo e magari imponendo le manifestazioni di un'arte arida e disperata. Il Prunas aveva stampato, su quel giornaletto di sua proprietà, Sud, che uscì in 7 numeri, ognuno dei quali fu un'avventura e costò vendite clandestine di oggetti familiari, pegni, cambiali e spesso collette tra i redattori più fortunati, aveva stampato il primo saggio in Italia sulla poesia inglese contemporanea, il primo saggio di Sartre sull'esistenzialismo, le prime pagine di cronaca familiare di Pratolini, l'atroce cronaca di Napoli del Compagnone, certe poesie moderne allucinate del Gadkens, che era un italo-tedesco. E segnalando ora questo quel nome, scavando, facendo scavare dai suoi compagni in questo quel fatto, stato d'animo e ambiente, questi si batteva per un ritorno della coscienza, un aprirsi della letteratura verso la cronaca, dove, secondo lui, era rifugiata la vita. Si batteva per una demolizione di quei miti, quelle sovrastrutture, quelle gassose aureole che con l'andar del tempo si accumulano intorno a una società sformandola. Napoli era piena di questi spettri, che occupavano i maggiori posti della vita pubblica, mantenendo nel terrore, nella mente, in un vizio informe, occulto, gli strati meno responsabili della popolazione. Occorre dire che il Prunas non era napoletano. Di nobile famiglia sarda, aveva concepito per Napoli un interesse enorme e con la sua aria appassionata e tetra si arrovellava e struggeva pensando cosa si poteva fare per questa grande ammalata che pure gli era estranea. Vestito come un impiegatuccio, senza mai una lira in tasca, i genitori non sapevano in qual modo costringerlo a prendersi la laurea e rientrare nel numero delle persone da bene, pure non tralasciava occasione per dichiarare il suo rispetto alla città, ridotta com'era, e ad affermare che la liberazione non doveva risolversi in un nuovo sistema di catene. L'indipendenza della cultura proclamata indispensabile, il diritto della cultura a sorvegliare lo Stato, a contenerlo invece che esserne contenuta, gli parevano un luogo comune per la loro chiarezza, ma non ometteva mai di parlarne. Tale ingenuità cominciò a irritare e disporre a qualche ironia gli animi. Non solo alla voce si cominciò a dire del ragazzo che era un'altra vittima delle irresponsabilità e leggerezza di ieri e che rivelava con quell'assioma la cattiva educazione ricevuta, ma anche il cerchio degli amici cominciava a slargarsi e nel silenzio e la malavoglia sopravvenuta manifestare uno stupore e non so che deluso scontento. In verità, le enormi rese della rivista Sud che giacevano ammonticchiate sotto e intorno al letto del ragazzo Prunas, nella oscura stanzetta in cui i suoi genitori lo avevano relegato, la pioggia delle cambiali protestate, che da leggera e autunnale si fece scrosciante e furiosa come nel più fosco inverno, il malumore della famiglia, alimentato dai soavi consigli del confessore, qualche lettera di un barone di Catanzaro che, avendo sfogliato la rivista sovietica, esprimeva la sua nausea, erano, anche per l'animo più ottimista, tutti segni indubitabili di una disfatta. Come da una spiaggia, sul finire della tempesta, si ritirano le nobili onde del mare che più la percossero e solo rimangono al suolo e brillano tra l'arena conchiglie, alghe, rottami, così si allontanarono dalle stanzucce dell'Annunziatella certi nomi e volti che più avevano brillato, lasciandone a terra altri che non avevano certo il loro splendore. Raffaele La Capria, che per un attimo con il suo Cristo sepolto era parso esprimere una generosa inquietudine della borghesia, si rinchiuse nelle grotte di Palazzo Donnanna, dove i suoi avevano un comodissimo alloggio, e là riprese a corrispondere con certi inglesi che amava, meditando la fuga a Roma e rinsaldando la sua furiosa passione per Proust e Gide, da cui doveva nascere, infine, un giorno d'impazienza. I marxisti dalle tenere sfumature liberali, Giglio e Ghirelli, rientrarono definitivamente nelle sedi che già si erano scelte per una silenziosa carriera, il primo a Milano e l'altro a Roma. Giovanni Gadkens meditava a Milano, ma inchiodato a Napoli dalla sua miseria, nella vita era un maestro supplente, tornava ogni giorno all'Annunziatella per discutere col Prunas a astratti programmi editoriali. Fedeli rimasero in qualche modo certi pittori. Tale Vincenzo Montefusco, un ragazzo quasi scalzo, sempre taciturno e solo, e Lippi Raffaele, figlio di un carabiniere, che nella sua casa di Vasto, il quartiere più grigio di Napoli, dipingeva gatti morti e macerie. In quanto a Luigi Compagnone, la sua reazione fu singolare. Iaia Forte ha letto Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.